La balun bella rusta, mammucci catalumusu, oi lì, oi la, chi ta già fa, e l'umusu non me le toccare, ma ne è l'anime mamma da. La balun bella yanka, mammucci catalla gamba, oi lì, oi la, chi ta già fa, e la gamba non me le toccare, ma ne è l'anime mamma da. La palum bella d'oro, mammucci catalo cuore, oi lì, oi la, chi ta già fa, e il cuore non mi le toccare, ma ne è l'anime mamma da. La palum bella gialla, mammucci catalo spalla, oi lì, oi la, chi ta già fa, e la spalla non mi le toccare, ma ne è l'anime mamma da.